Benvenuti a tutti, puntata numero 27 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Finale di conference con poco da dire apparentemente, in un'edizione dei playoff che evidentemente era partita piuttosto bene, con una serie di sfide al primo turno piuttosto interessanti e che progressivamente, anche per colpa di infortuni imprevisti, risulta segnata da un dominio effettivo e definito delle due squadre più attese, quelle che hanno lottato per il titolo nelle due precedenti edizioni, Cleveland e Golden State. Diciamoci la verità, ad est il super LeBron James di questa edizione dei playoffs lasciava già a prescindere poche speranze per una Boston che probabilmente, forte della prima scelta assoluta ottenuta nel draft, già studiava i piani di trasformazione estiva che potrebbero portarla ad un salto di qualità ulteriore il prossimo anno. Ad ovest invece l'infortunio in gara 1 di Kawhi Leonard ha pesantemente segnato il cammino degli Spurs nella sfida contro i Warriors, che per onestà intellettuale bisogna ammettere comunque abbiano giocato una serie impeccabile su entrambi i lati del campo, anche se comunque nel lato offensivo impressionano sempre di più. In gara 3 a San Antonio l'attesa della vigilia era tutta concentrata proprio sul leader in campo dei texani. Capire se Kawhi Leonard sarebbe sceso in campo o meno era condizione fondamentale per sostenere un minimo di speranza di rientro nella serie per gli Spurs, dopo il netto risultato sfavorevole ottenuto in gara 2 alla Oracle Arena, determinante il vantaggio di 2-0 nella serie per i vice campioni del mondo degli Warriors. La notizia della vigilia è che Leonard sarà assente anche per gara 3. C'è quindi da rimboccarsi le maniche per San Antonio, concentrarsi nel proporre una prestazione grintosa con un roster decimato da assenze pesanti ed augurarsi magari una notte poco ispirata al tiro per i Warriors stessi. Nel primo quarto San Antonio inizia bene, ma Golden State dimostra da subito che non è scesa in campo in Texas per fare una gita di piacere, ma che l'occasione può essere buona per chiudere di fatto la serie. Il secondo quarto è, principalmente nella metà conclusiva, il momento per il primo vero parziale di Golden State, quello che in definitiva decide il match, perché gli Spurs provano a rifarsi sotto nel terzo periodo ed a tener duro, ma l'ennesima gran serata offensiva degli Warriors prelude ogni possibile sogno di gloria. Veramente, Curry e compagni sono in evidente stato di grazia e, come dirà in seguito in conferenza stampa Manu Ginobili, probabilmente in una condizione simile sarebbero stati nettamente più forti dei migliori Spurs al completo, figuriamoci con l'assenza del miglior giocatore offensivo e difensivo a disposizione della squadra. E infatti i Warriors chiudono il match con quasi il 55% dal campo e con 11 triple di squadra messe a segno. Essenziale nei parziali nel determinare il controllo sul match, il solito Stephen Curry, che onestamente sta giocando una post-season di altissimo livello. Chiude questa partita con 21 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e soprattutto 6 recuperi. Super prestazione anche per Kevin Durant con 33 punti e 10 rimbalzi, che si conferma l'elemento di imbattibilità in più rispetto all'ottimo roster che si era confermato campione ad ovest già lo scorso anno, come era prevedibile ad inizio stagione. Stavolta si rivede qualche barlume anche del Klay Thompson che conosciamo, con 17 punti e 3 su 6 dietro l'arco. Ancora non è ai livelli ai quali ci aveva abituato e la cosa in prospettiva finale può rappresentare un problema per Golden State. Laddove non sembra esserci alcun problema fisico, la sensazione è che sia principalmente una questione di perdita di fiducia nei propri mezzi per Klay Thompson, magari sofferente lo status di terza opzione offensiva di squadra al quale evidentemente non era proprio abituato ad essere. In avvio nei primi due quarti ci sono anche 16 punti per un Javalone McGee che sostituisce egregiamente l'assente Zaza Pachulia, rendimento offensivo di livello in 13 minuti per una delle evidenti sorprese del mercato stagionale degli Warriors. Solito, granitico ed essenziale contributo anche per Draymond Green, con 10 punti, 7 rimbalzi e 7 assist e 4 su 6 dal campo. Con un quintetto del genere, il risultato finale appare ovvio. Finisce 120-108 per Golden State, che si porta sul 3-0 del probabile non ritorno per San Antonio. Ennesima tegola inoltre per gli Spurs. Si infortuna David Lee, che non sarà giocatore di prima fascia, ma sicuramente rappresenta da subito una pedina in meno nel già rimaneggiato scacchiere di Popovic. Anche perché Aldridge non va benissimo, con 7 su 17 dal campo per 18 punti totali. Sprecisi e poco incisivi anche Patty Mills e Danny Green nel backcourt dello starting 5. San Antonio ottiene tanto invece dai due grandi vecchi che partono dalla panchina. È la possibile penultima gara della carriera per Manu Ginobili e lui la onora al solito lottando come un leone fino alla fine, chiude con 21 punti e 7 su 9 dal campo. Nella conferenza stampa del post gara, rispetto proprio all'argomento relativo all'eventuale ritiro di fine stagione, Manu glissa dichiarando che in questo momento la sua situazione ideale è quella di concentrarsi solo sulla partita seguente, cercando di dare il massimo a disposizione. Se gara 4 dovesse essere la sua ultima gara di questa stagione, sarà solo allora che potrà fare un punto della situazione rispetto alla sua carriera. Se alla fine della mia ultima partita sentirò il mio corpo come quello di un ex giocatore, appenderò le scarpette al chiodo. Se invece mi sentirò bene da poter sostenere la ripresa degli allenamenti già in estate, giocherò anche l'anno prossimo. È questo, in soldoni, il suo punto di vista sull'argomento. Dicevamo, i due grandi vecchi, il secondo è Paul Gasol. Buona prova per lui, malgrado tutto, con 12 punti e 10 rimbalzi in 21 minuti. Una doppia doppia che però, come detto, non basta agli Spurs, che adesso rischiano lo sweep in casa per gara 4. Dovremmo appunto parlare di gara 4 a questo punto. Iniziamo con il dire che neanche per questa partita Kawhi Leonard scende in campo. Possiamo quindi dedurre stagione finita per lui fin da subito. Lo sweep si materializza di fatto dopo il primo quarto, che i Warriors dominano 31-19. A livello di parziali San Antonio muore qui. Potremmo parlare di un super carry di nuovo con 36 punti e 5 triple, coadiuvato da 29 punti di Durant e 16 con 8 rimbalzi e 8 assist per Draymond Green. Possiamo anche dire che di nuovo Klay Thompson non esiste in campo rispetto al giocatore che avevamo imparato a conoscere lo scorso anno. Tira con 3 su 13 dal campo e 1 su 5 da 3. Ma a Golden State questo importa poco di fatto, perché chiude la partita vincendo 129-115. Giunge così alla terza finale consecutiva negli ultimi 3 anni, con un record di 12 vinte e 0 perse, sconfiggendo gli Spurs 4-0. Rispetto agli Spurs, potremmo parlare di un LaMarcus Aldridge da solo 8 punti con 4 su 11 dal campo, di un Gasol da 6 su 8 dal campo, risvegliandosi di fatto quando tutto stava sfuggendo di mano per la squadra, del migliore in campo che è Kyrie Anderson con 20 punti dalla panchina e anche del 42% dal campo e del 32% da 3, che in casa per una squadra come San Antonio è decisamente poco. Parliamo invece di quelli che probabilmente sono stati gli ultimi 32 minuti della carriera di uno dei giocatori più geniali mai visti su un campo da basket, quelli di Manu Ginobili, che Popovic schiera in quintetto, facendoci quindi dedurre la sua probabile ultima danza, tributata in effetti con tutti gli onori del caso, compreso una commovente standing ovation in uscita. Manu onora la partita, ultimo dei vecchi leoni ad arrendersi, come detto, 15 punti, 7 assist e 3 recuperi per lui. In realtà, noi, come tutto il mondo del basket e forse dello sport, ci auguriamo che questi 32 minuti non rappresentino il this is it di Manu, e lui stesso ha dichiarato che comunque si prenderà una sorta di mese sabbatico per valutare e quindi per decidere. Non è quindi il caso di ricordarlo o commemorarne gesta e vittoria, a mio avviso. È il caso invece di prendere coscienza delle infinite capacità di un fuoriclasse del genere, dimostrate ancora una volta in una post-season dove era partito in sordina, ma dove è prevedibilmente uscito fuori nel momento del bisogno della squadra. Inutile tornare sopra la sua prova magistrale in gara 5 contro Houston, alla famosa stoppata su Harden, che ad oggi per me rappresenta il momento più eccitante di questa edizione dei playoff. Quello che vorrei sottolineare sono invece le capacità di leader rimaste intatte e lo sforzo per raggiungere prestazioni fisiche eccellenti nell'emergenza della finale di conference. Il modo inoltre in cui, fino da dopo gara 1, Manu ha parlato per la squadra in conferenza stampa, il modo in cui è sceso in campo fino a questa ultima gara 4, quella dello sweep, giocando sempre oltre il massimo auspicabile per un giocatore che ha superato i 39 anni di età, regalando sempre qualcosa di unico. È vero, ho appena detto che non ha senso commemorare o rimembrare una carriera clamorosa che ancora non si è ufficialmente conclusa, ma una cosina la vorrei ribadire. Manu è stato un leggendario in maglia Spurs, ha vinto tutto e a tutti i livelli, ma il suo autentico capolavoro resta la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Atene 2004 con la sua Argentina, sconfiggendo con 29 punti gli Stati Uniti in semifinale e chiudendo la competizione con circa 20 punti per allacciata di scarpe. E non dimentichiamoci tra l'altro che l'argento in quella finale da vedere e da rivedersi toccò all'Italia. E dico toccò perché l'argento purtroppo non si vince, per quanto non sia certo una medaglia da buttar via. Manu sarà indubbiamente un futuro Hall of Famer, sicuramente si tratta del più grande giocatore argentino di sempre, probabilmente il più grande giocatore sudamericano di sempre perché Oscar Schmidt in NBA non ha mai avuto occasione di confrontarsi, tuttavia, secondo me, la pagina più bella della sua storia, la vittoria più importante, resta proprio quella con la maglia del suo paese per la sua gente in quelle Olimpiadi. Parliamo della Eastern Conference adesso. Ad Est la situazione sembrava già scritta dopo le prime due gare di finale di conference al TD Garden. Gara 1 viene vinta dai Cavaliers per 117-104. I campioni in carica sfuggono già dal primo quarto, eppure ammettendo che Boston fosse piuttosto provata dalle 7 partite appena concluse contro i Wizards, è anche vero che giocare contro un LeBron James da 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist non è assolutamente facile. Se poi ci si mette anche Kevin Love con 32 punti, 12 rimbalzi e 6 su 9 da 3, Tristan Thompson da 20 punti e 9 rimbalzi, anche la prestazione sottotono di un Kyrie Irving con 4 su 11 dal campo e l'apporto quasi inesistente nella panchina di Cleveland passano in secondo piano. Kemba. Dall'altra parte in doppia doppia Isaiah Thomas con 17 punti e 10 rimbalzi. Ne mette 21 Crowder e 21 Avery Bradley. Ma non basta assolutamente. In gara 2 la situazione è ancora più netta. Tutti si aspettano il colpo di reni di Boston nel tentativo di sfruttare il vantaggio campo per equilibrare la serie. E invece i Celtics ottengono una sconfitta disastrosa. Finisce 130-86 e i primi due quarti vengono dominati dai campioni in carica per 32-18 e per 40-13. Il resto è ovviamente garbage time. Un LeBron famelico si attesta comunque sui 30 punti, tanto per non farsi mancare niente. Dall'altra parte invece è notte fonda. Boston chiude con il 37% dal campo, il 29% dal 3 e con l'infortunio del piccolo grande uomo Isaiah Thomas che chiude qui la sua stagione. Peggio di così non poteva assolutamente andare, tanto che la sensazione diffusa è che i Celtics, raggiunta la finale di conference e ottenuta la prima scelta assoluta del prossimo draft attraverso la vittoria della lottery, abbiano già tirato i remi in barca di fronte ad una Cleveland troppo forte. Sweep quindi previsto più o meno da tutti, anche se comunque c'è da giocare due partite. Per questo si va a Cleveland per gara 3. Qui tutto il mondo, come detto, si attende il colpo di grazia sui Celtics e l'avvio della marcia trionfale di Cleveland verso la finale. L'inizio lo conferma, con Cleveland che segna da 3 con semplicità unica, con un Kevin Love e un Kyrie Irving ispiratissimi, ed un LeBron James che stavolta sembra pure permettersi di stare a guardare i compagni impegnati nella partita senza inserirsi troppo. Boston, malgrado la perdita di Isaiah Thomas, schiena Marcus Smart in quintetto e prova a tener testa pur perdendo il primo quarto 35-24. Boston va anche sotto di 20, ma nel terzo periodo avvia una rimonta segnata proprio dalle triple di Smart, coadiuvato da una prestazione di squadra veramente impressionante. Si arriva nel finale punto a punto e LeBron nell'ultimo quarto non riesce ad incidere realizzativamente. Questo è sicuramente dovuto ad una evidente pessima serata personale, ma bisogna riconoscere ai Celtics che, all'avvicinarsi della conclusione della partita, hanno aumentato l'intensità sia difensiva che offensiva, limitando nettamente lo stesso James e marcandolo come poche altre volte si era visto in questa edizione dei playoffs. Così, colui che ad oggi era stato il dominatore assoluto dei playoffs chiude con un inusuale 4 su 13 dal campo per soli 11 punti. Le due squadre arrivano in volata alla fine, dove i canestri di Kelly Olynyk sono decisivi per agguantare il sorpasso dei Celtics. Cleveland riesce ad impattare dapprima con una tripla di J.R. Smith ed infine con una penetrazione di Kyrie Irving, che gioca una partita da 29 punti, 7 assist e 4 su 6 da 3 punti. L'ultima azione è nelle mani di Smart, che pesca in uscita da un blocco un Avery Bradley che lancia una vera e propria preghiera verso il canestro ad un paio di secondi dalla fine. Bradley chiuderà la sua partita con 20 punti personali. La sua terza tripla a segno è proprio l'ultimo tiro della gara. Il pallone infatti danza a lungo sul ferro prima di insaccarsi, lasciando solo un decimo di secondo sul cronometro. Clamorosamente Boston vince a Cleveland 111-108 e clamorosamente rientra nella serie sul 2-1 quando nessuno più poteva aspettarselo. Potremmo scomodare il solito Celtics Pride parlando di un match dove i biancoverdi scendono in campo con tutti gli sfavori del pronostico e senza il proprio leader, ma trovano 15 preziosi punti di Olynyk dalla panchina, 27 con 7 su 10 da 3 di un super Marcus Smart assolutamente decisivo, 14 con 11 rimbalzi per Crowder, 16 per un ottimo Al Horford, 10 con 2 su 2 da 3 per un decisivo di Repco. Dall'altra parte, tralasciando il peggior James della postseason e quello che al momento era il miglior Kyrie Irving della postseason, super prova di Kevin Love con 7 triple, 28 punti, 13 rimbalzi e soprattutto un super avvio di partita. Da non sottovalutare anche i 18 punti e 13 rimbalzi di Tristan Thompson e i 13 con 4 triple per J.R. Smith. C'è poco altro però, ed infatti non basta Cleveland che viene sconfitta così per la prima volta in questi playoffs. È una Boston risorta quella che scende in campo anche per gara 4 a Cleveland, decisa ad impattare la serie. Lo fa con un primo quarto strepitoso, vinto 29-19, e con un Olynyk che parte in quintetto e che chiuderà con 15 punti anche questa partita. Diciamoci la verità, senza Thomas la squadra perde molto a livello di talento, ma con gli accorgimenti necessari in quintetto risulta un ensemble molto ignorante e quindi molto duro da affrontare, con giocatori come il già detto canadese, Avery Bradley, Marcus Smart, Crowder, che sono in condizione al momento di poter dare tutto e non aver niente da perdere. Nel primo tempo LeBron colleziona subito 4 falli e questo non solo gli genererà dei problemi personali nel proseguo della partita, ma genera conseguenzialmente dei piccoli problemi anche per Cleveland stessa. Ci pensa però un superbo Kyrie Irving a guidare la rimonta a sorpasso dei Cavaliers, che in definitiva allungano vincendo il terzo periodo 40-23. Per Irving ci sono 42 punti totali a fine partita, per LeBron comunque, malgrado i problemi di falli, 34 con 5 rimbalzi e 5 assist. Per Cleveland quasi il 60% dal campo e il 45% da 3, con 3 triple di un Kevin Love che chiude comunque con 17 punti e 17 rimbalzi. Finisce 112-99, ma Boston dimostra che nonostante tutto una chance per allungare la serie è ancora possibile. Facciamo un piccolo punto della situazione. È innegabile, come già detto, che nonostante tutto queste finali di conference e l'epilogo di questa fase dei playoff abbiano comunque fornito una serie di storie curiose da analizzare, come gli infortuni di Isaiah Thomas e Kawhi Leonard, come la presumibile ultima danza di Ginobili, come lo strapotere delle due favoritissime squadre e delle loro stelle, ma contemporaneamente hanno indubbiamente rappresentato un'ulteriore dimostrazione del fatto che a livello competitivo il divario tra Warriors, Cavs e il resto del mondo è potenzialmente ancora molto molto molto ampio. Sarebbe auspicabile quindi un'estate di rivoluzione a livello di mercato per augurarci che questo trend possa cambiare, anche perché stiamo per entrare per la prima volta nella storia della Lega in una finale che vedrà protagoniste due squadre che si reincontreranno per la terza volta consecutiva. E visto che potenzialmente avremo una intera puntata, quella della settimana prossima, per avvicinarci alla finale, chiudiamo qui con le probabili analisi e i probabili pronostici, anche perché, anche sperando in una Boston che forzi gara 6, ad Ovest Golden State si sta già preparando per gara 1 all'Oracle Arena, consapevole che probabilmente si ritroverà di fronte di nuovo il LeBron James furioso dello scorso anno, ma con un Kevin Durant tra le loro fila in più e forti soprattutto di un 12 vinte e 0 perse in avvicinamento verso la finale. Chiudiamo qui, l'appuntamento è per la settimana prossima, vi comunico che molto probabilmente la settimana prossima NBA Week non sarà in onda su Radio Big World nel flusso streaming alle 21.30 del giovedì sera, ma cambieremo giorno. Al momento non sappiamo giorno e ora della messa in onda effettiva e quindi del conseguente giorno in cui registrerò. Ve lo comunicheremo ovviamente nella nostra pagina Facebook NBA Week e nel nostro blog medium.com/NBA Week, all'interno dei quali spazi social troverete a partire da venerdì mattina il podcast per ascoltare e scaricare questa puntata, e regolarmente anche continuerete a trovare i podcast delle puntate a venire che parleranno delle finali NBA presumibilmente. Quindi continueremo a seguire la parte conclusiva, la parte più emozionante della stagione con NBA Week nelle prossime puntate. Ancora grazie per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima.